Abbiamo ai nostri microfoni Marco Marcozzi, che è il chitarrista della band che vi presentiamo. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Allora, senti, presentaci la vostra band, come siete nati e soprattutto spiegaci il significato del nome. Questa è una bella domanda. Comunque, allora, noi siamo nati nel 2013, con gente di San Benedetto, della mia città, e praticamente in realtà siamo amici che hanno deciso di cominciare a fare pezzi propri, perché comunque tutti abbiamo suonato in cover band, abbiamo suonato insomma in locali eccetera, quindi abbiamo detto: ma perché non facciamo un gruppo, così magari riusciamo anche a fare pezzi nostri. Allora il gruppo è nato nel 2013, ma si è trasformato moltissimo nel tempo, e infatti la formazione è sempre stata variabile, nel senso che siamo sempre stati, diciamo, tre fondamentali più un gruppo di diverse altre persone che ruotano intorno al gruppo, ecco. Certo. Avete pubblicato... Vai. No, il nome vuoi sapere il nome? Perché sì, dici. Ma diciamo, c'è una versione diciamo ufficiale per la stampa e poi la versione quella vera, la verità, cioè la versione per la stampa è che IDI sarebbe l'acronimo di You Do You, okay. Cioè fai ciò che scrive te stesso. Per quella vera, magari adesso non è che posso stare a raccontarla, perché in realtà è banalissima. Qui c'è Valeria che ha capito tutto. Fa segni strani qua dalla regia. Ha capito, perché intercetta questi messaggi subliminali che stiamo inviando. Ma comunque, cambiando discorso, Carlotta voleva farti un'altra domanda. Avete pubblicato già dei lavori? Come vi producete, registrate? Allora, abbiamo fatto un album ormai 2 anni fa, nel 2017, l'abbiamo autoprodotto, cioè l'abbiamo fatto noi con un tecnico che ci ha aiutato, che è Pietro Rosetti, sempre di San Benedetto, abbiamo registrato nel suo studio, eccetera, e comunque sì, l'abbiamo fatto noi, insomma, l'abbiamo autoprodotto. Senti Marco, qual è il vostro sound, che genere musicale proponete? Allora, diciamo che questo primo album, essendo diciamo fatto da una miriade di persone, nel senso che molti hanno collaborato insomma per questo album, il sound, il genere è difficile da definire. Noi diciamo rock psycho groove, che in realtà non vuol dire niente, però vuol dire che c'è tutto. Ci sono talmente tante ispirazioni e persone che ci hanno dato una mano, eccetera, che è difficile, cioè, trovare un genere definitivo, ecco. E infatti, a proposito di quello che hai appena detto, quali sono gli artisti che vi ispirano? Che influenze avete? Appunto, siccome siamo tante persone, anche questo è difficile dirlo, però io posso dirti, diciamo, che tra di noi ascoltiamo dagli SDC a Gigi Dag, insomma. Cioè, scusa, chi di voi ascolta Gigi Dag? Ma tu chi è che non ascolta Gigi Dag? Hai anche ragione. E comunque, diciamo, ecco, cioè, sia il rock, appunto, sia l'elettronica, il reggae, il funk, ecco, questi diciamo sono i gruppi veri e propri. Posso dirti, per me sono i Pink Floyd, cioè la chitarra di Gilmour, eccetera, queste cose qua. Poi c'è veramente tanta roba da cui prendo ispirazione, quindi ecco, sono tanti. Senti Marco, invece, ritornando alla vostra musica, di che cosa parlano i vostri testi? Allora, diciamo che per noi è molto importante la musica, poi il testo diciamo arriva in secondo piano, ecco. Quindi però diciamo i testi sono abbastanza anche questi variegati. Ci sono canzoni che parlano di sentimenti, di amore, ma ci sono anche pezzi che parlano di politica, di esistenziali, pezzi proprio bellissimi, esistenzialissimi, ecco. Cioè, nel senso, il discorso è che sono molto vari anche questi, ecco. Poi c'è, diciamo, c'è uno del gruppo che è, diciamo, più bravo a scrivere, quindi li scriviamo sempre in collaborazione, però lui è che tra l'altro è il batterista cantante un po', ecco, diciamo il suo nome, nominiamolo. Giustamente, hai ragione. Daniele Olivieri e l'altro che sono con noi è Danilo Ubaldi. Perfetto. E senti, invece noi abbiamo visto che per il pezzo che abbiamo mandato in onda prima, che è Think About, avete prodotto anche un videoclip. Ce ne parli un po'? Sì, allora, questo videoclip ha avuto una storia, diciamo, travagliata ma brevissima, perché stavamo per pubblicare l'album e ci dicono: ma perché non fate un video per, diciamo, pubblicizzarlo, no? Certo, giusto. Allora chiamiamo dei nostri amici che fanno video, la Camon Video di San Benedetto sempre, e diciamo: guarda, noi abbiamo budget zero, possiamo fare un video? Facciamolo, dai, tanto non abbiamo niente da fare, ecco. Allora in due giorni chiamiamo una nostra amica attrice, che è la protagonista del video, e diciamo: guarda, ti diamo 5 euro che vieni a fare l'attrice. Allora, insomma, abbiamo organizzato tutto questo in una settimana, compreso montaggio e tutto, abbiamo fatto il video, ecco. Perfetto. Bene, chiudiamo l'intervista allora facendoti l'ultima fatidica domanda: progetti futuri, date, se ne avete? Allora, sì, per adesso abbiamo una sola data, a Grottammare ad aprile, e poi diciamo progetti futuri in generale, stiamo lavorando per il secondo album, che sarà leggermente diverso, dato che il primo album è stato fatto quando eravamo 7 persone. Ecco, adesso siamo 3 persone, abbiamo un po' ridotto il personale, quindi avrà sonorità un po' diverse, un po' più elettroniche, e sarete a sentire quando uscirà.